Thank you. Saremo a casa stasera, sentirai. L'affamatrice, la brigantella, è la mia nipotina Mariella, che porta la mia scarsa e magra cena. Sono contenti i tumultuanti. Arrestate quell'uomo! No, no, uguaglianza, uguaglianza, vostro paniere, vostro paniere, vostro paniere, dobbiamo avere tutti a fare uno pezzo, molto armato, il paniere, il paniere, il paniere, il paniere, il paniere, lascia fare, ti stanno! La plebe strepita, impazza, ammazza. diventa più feroce delle fiere. Per un paniere. E forse quel paniere, dopo ogni giorno, ruzzolano tante teste mozzate. No, no, attorno a quel paniere, al piede del palco, il popolo s'accalza e s'agita e gesticola e grida come un falco, ride, sghignazza, applaude e canta. E balla! Ma questo è un altro affare. Si tratta di un paniere di roba da mangiare, mettendo tutti e due sulla bilancia. E viva chi ci porta via la testa! Abbasso chi ci fa scemar la pancia. E l'ingordo furfante sei tu, rappresentante. Negare non ti giova, qui c'è la prova. Eccola l'alta scena. Ah, finalmente, sfamati popolo, hai fatto. Pernice, gambere fritti, pane di grano, bocca ripiena, che bel fagiano, bordo vecchissimo, innocente, non c'è più niente. Non l'hai finito, buttami il resto. Buon appetito! del popolo morì. Giuro. Giuro di denunziare i vile traditori, fossero pur miei figli, fossero genitori, e di condurre in pavido al bacio di Brisson. Segna i caporioli, stanotte arresta, e domani la testa. Thank you. bravo ragazzo. Un po' di furberia, tutta la roba vuota, io l'avevo di già buttata via. Ti terrò di conto. Non son tranquillo, no. Un bel giorno gli affamati, disperati, ci assassinano. Troppe mucche e poco pane. Bisogna sbarazzare le prigioni e riempirle e rivuotarle subito. Ma quel sistema rapido per quando è all'ordine? Stasera. Per questa sera, stasera, finalmente. Aspetta, capitano. Mezzanotte si indeserte le strade lungo il fiume, deserti ponti, chiuse le finestre, spento ogni lume. Quello sbocco poi. Del tuo battello. Senza vele, senza remi, tutto si va lentamente, la corrente lo allontana dalla riva. Ma perché tremi? Prosegui il tuo viaggio, oh santa libertà, dammi coraggio. Avanti, avanti. Quando è giunto giù alla foce, dove l'acqua più è profonda, una scatola di polvere scoppia, apri una levata, il battello affonda. Affonda. Quando tu imbarchi, quando è più scuro, sarà il segnale un rullo di tamburo. Di che cosa è carico il battello? Non lo voglio sapere. Io faccio il carpentiere. Io faccio il carpentiere. Con il boia. Che cosa dici? Vuoi tirar le boia? Perdono, cittadini. Evviva la Repubblica, i settembrizzatori, evviva tutti, sì! Ma è la paura. Da quando ho incominciato i lavori di questa sepoltura, la notte non mi sogno che affogati. Carpentiere, sei debole. io ti fornisco gratis una cura ideale per rinforzarti e ti condanno aiuto ad assistere ad ogni esecuzione capitale. No, no, no, pietà, l'ultima condanna, pietà, pietà, coraggio carpentiere, pietà, pietà, farai dei sogni allegri. Ubriaconi armati, imparate a conoscere i soldati. Bello il palazzo del comitato. Questo chi cerchi? Il presidente. Ecco, sono io. Alla caserma. E tu chi sei? Vengo dal campo. Una missione d'alta importanza. Vieni, ascolta. Salute, fratellanza. Non mi stringi la mano. La mia mano è quella d'un soldato. Per le vittorie della libertà gloriose pure la mia stringe la spada. La mia la sua. Del giustiziere oppure dell'assassino. Cittadino, dimentichi a chi parli. No, son mandato a chiederti ragione sul come tu amministri la giustizia. Nessuno è sopra me, tranne la convenzione. Prendila al generale e ho rifiuto qualunque spiegazione. Ho diritto la chiedi in nome dell'onore. Thank you. Il figlio principino moriva di dolore. esserle vicino, un rischio tenterà andar per servitore dell'orco. Chi lo sa, l'accoglierà, lo mangerà, chissà, chissà. La mamma è là, il poverino si travestì, il segno della croce, e poi partì. Le novelle son belle, su, in viaggio, guarda, è arrivato Cappuccetto Rosso, se lui ti salverà. In vano, la la la la la la la la la la la la. E allora, carpentiere non te ne ricordi del carpentiere? La condanna di tuo zio, lo sai, è una condanna orribile. Sono venuto per raccomandarmi a te. quello ne hanno fatto un boia, come di me. ti prega la morte, per una sacra immagine la morte, e per tutto la morte, morte, sempre questa morte davanti. Ebbene sì, io son pronto, mi sono riscattato, ed ho fatto la spia al soldato, io, e sa tutto, gli annegamenti furti, e verrò oggi, e parlerò alla folla, e se riesce, oh Dio, tienne di conto. Sono stato io, il carpentiere, io. Sono perduto, sono perduto. Sento, non temere. Mi tradirai. Di non tradirmi. Grazie, ci sarà. Ora va via. Ora va via. Caterina, Enrico, Sofia, la Bosch. Guarda, gli risposi. stringono la mano. Possiamo incominciare. Aspetta, c'è una donna. Una donna? Chi sei? Manca l'incartamento. Cittadino, mi par giunto il momento di parlare ed intenderci. Da un mese di nascosto tu non fai che spiare, interrogare, e tutti i tuoi pensieri sono rivolti ad un oggetto solo, i prigionieri. Moscardino galante, dalle prigioni vuoi salvar l'amante? Sì, l'amante più bella, la più amata, la più pura, la Francia. Salvala alla frontiera, noi qui salviamo la rivoluzione. La disonora. Affogando i fanciulli, poi rubando il denaro ai prigionieri, e tu sgozzandoli d'un colpo solo, come ti vanti? E tutto questo in nome della santa libertà. Di strage, di terrore, nella perché noi dobbiamo averla, questa tua pietà. O popolo che ascolti, digli che la pietà l'abbiamo chiesta per mill'anni e mill'anni, e come rispondevano i prima d'ora, sopra la plebe, rito di vita, di morte e di fame. Le nostre messe a loro, le nostre braccia a loro, le nostre donne a loro, la nostra vita a loro. E non bastava mai. Ogni giorno frustate più forte, ogni giorno più straccia la piaga, ogni giorno più stretta la borsa, ogni giorno di più giù nel fango. Li sentivano pure i nostri gemiti, i pianti, i gridi, disperatamente invocare pietà, pietà, pietà. Sono mutate le sorti, ed ora tocca a noi degli strazi, degli avvilimenti, vogliamo vendicarci della fame. Si avventi la tempesta del terrore, sul vecchio mondo infame, tutto il passato crolli, sia tutto una rovina. bottiglie che beviamo. Facciam che si divertano a contare. Andiamo alle prebianco. Se tu non trovi quelle carte, vada, quando torno ti frusto. Nascondila. Lo sai? Picci. Ah! stanzetta cre ed aspetta, verrò da te se vinta, aspetta fino all'alba, tu fuggirai con me, tutto è già pronto. Che cosa fai? Ma no, non è più l'incontro. ti scongiuro, dille, dille che sono già al sicuro, che m'aspetto alla foce, a San Nazar, e quando sarai salvo in mezzo al mare. Voglio darti la forma.